Salve a tutti, benvenuti in una nuova puntata di Arcadia, grazie a Radio Big World. Oggi voglio parlare dell'eclissi di sole che c'è stata qualche giorno fa. Perché è importante questa eclissi di sole? Perché, come ho detto anche la scorsa puntata, bisogna scavare e farci delle domande che prima non ci eravamo mai fatti, e siamo qui per questo. Per farci delle domande. E una delle cose che non mi tornano, non mi sono mai tornate dell'eclissi, è che ci sono solo immagini viste dalla Terra. Cioè, come solo immagini viste dalla Terra. Vediamo solo le immagini dalla Terra. Non ci sono, insomma, ci viene detto ci sono i satelliti, perché ci sono tanti miei amici che mi danno contro questa cosa, che dico che la Terra è piatta, che non è un globo. Mi dicono: ma ci sono i satelliti, ci sono le immagini da satelliti, ci sono c'è l'ISS che gira intorno alla Terra. Insomma, l'ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, che è stata montata in 2 anni nello spazio e di cui non ci sono immagini della costruzione di questo, penso, un monumento alla storia dell'umanità, perché penso sia un passo importante avere una cosa come l'ISS che gira intorno alla Terra, che può osservare tutto quello che accade intorno al nostro pianeta. Quindi, che ha a che fare con l'eclissi? Ha a che fare con l'eclissi perché quando ci sta l'eclissi, il 21 agosto in America, sono stato attaccato allo schermo praticamente tutti i giorni a cercare video, immagini live, dal vivo della Terra, dallo spazio, per vedere l'eclisse dallo spazio. E cosa mi aspettavo di vedere? Io mi aspettavo di vedere la Luna che fa l'ombra sulla Terra, ma questo non è avvenuto. Anche la NASA stessa ha detto che non avrebbe fatto nessun video, ma avrebbe solo fatto qualche foto. Ora, con tutte le ore che ci sono di registrazione degli astronauti che camminano fuori nello spazio, che vanno a fare le riparazioni, li vediamo fuori con hanno una semispecie di spada con loro, che credo non serva a niente perché non ho mai visto usarla per niente, ma è una spada. Cosa gli costa girare la visuale anche da dentro, senza bisogno di uscire fuori la stazione spaziale? Anche da dentro c'hanno la cupola. C'hanno la cupola dentro, dove hanno una visione molto ampia di quello che hanno intorno. Per quale motivo non ce l'hanno fatto vedere? Perché non possono, perché non c'è, perché è tutto finto. E tutto finto non dire l'eclissi è finta, ci mancherebbe altro. L'eclissi, quella è una cosa che possiamo osservare tutti, ma è davvero quello che è? O si tratta di un altro fenomeno che ci hanno nascosto? È davvero la Luna che va di fronte al Sole o no? E quindi cerca, cerca, cerca, come ho detto, scavare. È importante scavare, è importante farsi delle domande. Per quanto possano essere stupide, possano sembrare stupide, è importante farsi delle domande. E la domanda che mi sono fatto io è: perché non ci sono immagini di nessuna eclissi avvenuta, né di luna né di sole? Non c'è nessuna immagine di nessun fenomeno lo possiamo osservare dallo spazio. Cioè, abbiamo ore e ore e ore di filmati di astronauti che giocano con la Lego. Attenzione, giocano con la Lego nello spazio, con le bollicine, con le bolle di sapone, ti fanno vedere gli elicotterini che fluttuano dentro la stazione spaziale. Ci fanno vedere queste immagini spettacolari del nostro pianeta visto dall'assù, però non abbiamo nessuna, non possono inquadrare la Luna o il Sole da lì. Dalla Stazione Spaziale Internazionale non è possibile osservare altro che... si può osservare solo la Terra. E questo è il punto che secondo me è importante, che vi dovrebbe far porre delle domande. Dovrebbe iniziare, per chi non ha iniziato, se qualcuno ha già qualche dubbio, penso sia un bel punto d'inizio questo. L'iniziare a farsi questo tipo di domande mi mentono? Mi stanno dicendo davvero la verità? E come è davvero la verità? Quindi perché non avere nessuna immagine? Provate anche voi, andate a cercare, non è difficile, insomma abbiamo internet, è un'era super tecnologica dove possiamo praticamente sapere tutto in un batter d'occhio, se vogliamo. E non ci sono, c'è solo qualche foto che secondo me è fatta al computer, non è una foto vera, almeno quelle viste dallo spazio. Non ci sono video reali, veri, ripresi da un astronauta, comunque da una telecamera, da uno dei 17.000 satelliti che vagano intorno alla Terra, almeno a quanto dicano, perché secondo me non ce n'è uno. Però non ci sono immagini dell'eclissi, niente, zero. Eppure ci sono sonde sulla Luna, ci sono, penso, forse la stessa telecamera che ha ripreso la prima missione spaziale lasciare la Luna. Si vede la ripresa del modulo che lascia la Luna con quei fantastici effetti speciali che, se non l'avete visto, vi consiglio di guardare, perché sono una meraviglia per gli occhi. Quella telecamera lì che fine ha fatto? Insomma, non ci sono degli strumenti, delle telecamere che osservano dalla Luna, o che registrano, o che mandano un qualche segnale input? No. Ora, ho detto l'eclissi come può essere un qualsiasi altro fenomeno, può essere pioggia di meteoriti, quando San Lorenzo, siamo tutti qui sdraiati sulla Terra a guardare il cielo, a esprimere i desideri quando vediamo passare le stelle cadenti, ma quelle stelle cadenti passano vicino all'atmosfera, per poterle vedere passano vicino alla Terra, che la Terra è circondata dai satelliti, tra cui c'è anche l'ISS. Perché non c'è nessuno di questi fenomeni che possiamo osservare da lassù, da così in alto? Abbiamo video e foto dell'eclisse, o magari delle stesse meteoriti, delle stelle cadenti, ma non ci sono video dall'ISS, no? Perché? L'unica spiegazione che mi sono dato è che non è reale, quello che viene fatto vedere dall'ISS non è la realtà. Perché non è la realtà? All'inizio pensavo che fossero immagini molto riprese da molto più vicino alla superficie terrestre, non che fossero davvero dallo spazio, cioè che fosse tipo un aereo molto molto molto alto, con ovviamente le telecamere a occhio di pesce, queste famose fisheye lens, le GoPro, come le volete chiamare. Poi invece ho detto, l'ISS può essere tracciata, come mi hanno detto in tanti. L'ISS può essere tracciata, può essere anche avvistata dalla Terra, si può vedere, ci sono tanti video in cui si vede l'ISS passa, quindi è davvero l'ISS, il cielo, possiamo tracciare l'ISS, possiamo vedere che ci passa sopra la testa quando tipo abbiamo il cielo completamente libero, oppure ci viene detto sì, ok, l'ISS è sopra di noi in questo momento, tipo è sopra l'Italia, e tu la puoi vedere anche, fa conto, dalla Toscana, da qualsiasi regione magari dell'Italia. Però c'è un problema: se vai a vedere il live, se andiamo a vedere il live dell'ISS, o comunque di un satellite che gira intorno alla Terra, che viene definito live perché è dal vivo, e questo dalla NASA, non da un sito a caso che tipo fa vedere una registrazione e ti dice che è live, in realtà non è, ma direttamente dalla NASA. Cosa possiamo notare? Possiamo notare che magari in Italia non c'è nessuna nuvola, zero nuvole, però nel live dell'ISS vediamo che l'Italia è completamente coperta di nuvole, l'intera Europa è coperta di nuvole. E questa è un'altra cosa strana, com'è che io vedo completamente sole, c'è sole in tutta Italia, nessuna nuvola, e però dalle immagini dello spazio vedo che l'Italia neanche si vede dalle nuvole nere che ci sono, dall'oscurità immensa che ci copre. E anche questo, e quindi il mio ragionamento è stato anche questo, è stato allora è finto. Le immagini che ci fanno vedere non sono le immagini del momento, magari possono essere registrate, possono essere create, non è la verità, perché io non ho una nuvola sopra la testa, però dall'ISS vedo le nuvole, non posso vedere la Toscana, non posso vedere l'Italia, no? Non ha senso, non torna. E sono queste domande, questo tipo di domande che andiamo a porci, che ci conducono, secondo me, a una verità o a una mezza verità, o comunque ci conducono a una strada che ci può far aprire gli occhi. Un saluto dall'Arcadia. Grazie a Radio Big Word e alla prossima!